fossi colpevole. Non c'è più tempo, non c'è più tempo per riflettere. Non ho più voglia, non ho più voglia di restare. E tu ricorderai l'amore, risorgerai dal niente, camminerai nella vita un'altra volta delusa dagli sbagli che rubavano il fiato. Casa al futuro che assaporerai con un po' di sale mentre alla TV passa un'altra notizia degli sbagli del mondo, che come te anche lui ci spera, come te anche lui rimane ferito. Non c'è più tempo per, non c'è più tempo per riflettere. Ricorderai.